Bene, grazie a tutti per gli interventi, perché davvero questo scambio che c'è stato ha messo in luce molto bene la complessità del problema. Allora, c'è tutto nel discorso sulla salute, ci sono le farmaceutiche, c'è il problema della ricerca farmaceutica delle malattie orfane, su cui effettivamente nessuno fa ricerca perché nessuno la paga. C'è il discorso dell'ambiente di vita, dell'ambiente di lavoro, e c'è il discorso della formazione dei medici, c'è il discorso del bisogno del cittadino di essere certo di avere un accesso equo alle cure, quindi il timore che questo diritto venga subdolamente negato o ridotto. E su tutto questo, Slow Medicine è un'associazione, quindi non sto facendo propaganda a qualcuno che compra o vende delle cose. E nasce esattamente su questo movimento, che è un'associazione aperta a professionisti sanitari, cittadini e organizzazioni, voglio dire anche un'organizzazione sindacale sarebbe benvenuta se aderisse a Slow Medicine. Perché ve lo dico? Perché questa complessità in qualche modo va, non dico governata, però va fronteggiata. Il rischio delle situazioni complesse è che poi sembrano complicate, cioè come facciamo a intervenire sulle farmaceutiche? Come facciamo a intervenire sulle scelte del Ministero? Quello che noi stiamo cercando di fare è di fare delle azioni complesse ma circostanziate. Allora cerco di spiegarvi che cosa è possibile fare, che cosa sta già succedendo per quello che è stato detto adesso, cioè questo incontro fra medico e cittadino, paziente, ma preferisco cittadino perché i malati sono la minoranza, dai, diciamoci. Allora, in questo incontro fra i medici e i cittadini succede una cosa su cui secondo me un'organizzazione come il sindacato può intervenire. Ed è questo, io mi sono fatta un disegno, perché come avete visto dalle slide io poi ragiono per immagini, mi sono fatta questo disegno qua. Allora, prendiamo il cittadino medio italiano, c'è un dato, il cittadino italiano rispetto al resto del mondo, non spaventiamoci, è quello che ha un più basso livello di capacità di capire il linguaggio della sanità. Ha un nome inglese, si chiama Public Health Literacy, fa molto figo, ma vuol dire banalmente che il cittadino italiano mediamente di fronte a una ricetta, di fronte al bugiardino, di fronte al consenso informato è quello che ha minori competenze per decifrarlo, per capire cosa caspita ci sta scritto. Ok, e questa è una cosa. L'altro aspetto è che lo stesso cittadino con bassa capacità, medio perché poi mediamente, lo stesso cittadino ha invece un altissimo accesso all'informazione indifferenziata, cioè legge il giornale, quello che viene scritto sui giornali, sul farmaci, esami eccetera, va su internet e raccoglie informazioni che però ha poche competenze per capire. Questo crea un cortocircuito micidiale che richiede una attenta operazione di informazione corretta. Questo Slow Medicine cerca di farlo e abbiamo anche noi l'appoggio di, per esempio, Altro Consumo pubblica regolarmente delle schede informative con linguaggio comprensibile per spiegare alle persone che cosa è appropriato e che cosa no rispetto a esami, farmaci, eccetera. Però su questo un'azione potrebbe essere molto utile, cioè migliorare la competenza dei cittadini nel leggere i messaggi sanitari. Dall'altra parte ci sono i medici e la cosa che costantemente viene richiamata è il medico ha poco tempo e quindi non può creare questo rapporto che anche a lui tocca di educazione del cittadino, perché anche al medico gli tocca di far capire bene al suo paziente come usare il farmaco, cosa, in che modo lo stile di vita. Allora, il medico si dice non ha tempo. Ma ragazzi miei, non ha tempo per una cosa che è stata detta? Cioè, negli studi medici c'è una quantità di gente che non aveva nessun motivo per stare lì, che era meglio se andava al parco a fare due passi, meglio a passo sostenuto, così serve anche per ridurre il colesterolo, eccetera. Allora, l'altro cortocircuito è la medicalizzazione della vita quotidiana. Mi fa male la schiena, vado dal dottore, così magari mi fa fare i raggi che non servono e mi faranno male, più male che bene. E allora, c'è un accesso eccessivo alle prestazioni anche a livello di base. Secondo, il medico ha poco tempo, e questo invece lo mettiamo a carico dei medici, ma ci stanno, vi assicuro. Il medico con poco tempo, anche qualsiasi professionista sanitario con poco tempo a disposizione effettivo, l'infermiere del pronto soccorso, può imparare, ve lo assicuro, può imparare a comunicare bene, con competenza, anche se ha 4 minuti, 5 minuti. L'importante è non sprecare il tempo della comunicazione e saperlo usare. Allora, dentro il nostro progetto Scegliamo con Cura c'è la formazione dei medici, e la stiamo facendo in collaborazione con l'Ordine, che ci ha dato una serie di aiuti per organizzarla, eccetera. Sabato ci sarà il primo incontro con i medici di medicina generale di formazione sull'appropriatezza. Beh, la cosa che a noi ha fatto piacere è che questo corso di una giornata di sabato, che insomma uno il sabato magari sta con la famiglia, è gratuito, è vero, però è uno sbattimento andare a fare formazione di sabato. I 50 posti disponibili per la prima edizione sono andati esauriti nei primi 3 giorni in cui è stata data l'informazione. Abbiamo 50 altri medici in lista di attesa, altri ci saranno. Cosa significa questo? Significa che se le cose si cominciano a fare, poi si fanno. L'esigenza di... non dobbiamo credere che alle persone fa piacere che le cose vadano male, no? A tutti fa piacere che le cose vadano meglio, e questo vale per tutti. Vale per i medici, per i professionisti sanitari, che se gli si dà l'occasione per lavorare meglio sono contenti. Bisogna creare l'occasione, bisogna definire che cosa vuol dire lavorare meglio. I cittadini, se gli proponiamo dei momenti di incontro e di riflessione sulla loro salute, fatti bene in modo indipendente, in modo chiaro, senza professoroni che parlano strano e dicono cose strane, li fanno i pomeriggi della scienza, ma secondo me per il cittadino è molto più sensato un incontro dove 40 persone, 30 persone si confrontano e espongono anche le difficoltà che hanno. Allora, secondo me è questo che stiamo cercando di proporre. Il dialogo si fa da due parti. Se il paziente è più informato, sa chiedere meglio al medico. Se il medico è più formato, sa rispondere meglio, risolveremo i problemi della vita, magari no, però un piccolo miglioramento magari riusciamo ad attivarlo. Vi do un'informazione, vedo da qualche parte Miriam dove sei finita? Eccola là. Allora, Miriam, che è una esponente dei giovani di Slow Medicine, perché per fortuna non siamo tutti vecchi barbogi e pensionati, ma ci sono anche dei giovani, e sta organizzando per noi dentro il progetto Scegliamo con Cura degli incontri in piccoli gruppi di cittadini per discutere questi problemi. Poi ci servirà la riflessione che succede in questi piccoli gruppi per approfondire e anche per perfezionare, per mirare meglio le nostre indicazioni. Allora, chi di voi è interessato a partecipare a questi incontri che si svolgeranno nella nostra sede che è via Valperga Caluso, quindi non tanto distante, lascia il nome, si mette in contatto con Miriam per farti vedere, e così vediamo se cominciamo a organizzare queste cose, poi magari le fate anche circolare fra le persone che conoscete. Più gruppetti riusciamo ad attivare, più riusciamo anche ad avere un'idea di come è oggi l'atteggiamento delle persone rispetto a questi temi. Ok? Grazie.